Sono le 17.23 di venerdì 11 aprile 2025. E così, a seguito di una novità sul fronte personale, e cioè che fondamentalmente mia madre si è stufata di gestire la sua galleria d'arte a Pietrasanta, mi ritrovo a dovermi occupare di questo spazio che da un lato ha la scomodità di essere molto lontano, dall'altro però è interessante perché Pietrasanta è un luogo dove nel giro di 200-300 metri ci sono una trentina di gallerie d'arte contemporanea, quindi di sicuro è un posto dove si va anche per farsi un'idea, soprattutto, ecco, chiaramente d'estate, quando è frequentata molto di più da collezionisti e addetti ai lavori, farsi un'idea sulla direzione che sta prendendo questo mondo. E naturalmente il primo riflesso condizionato è quello di affittarla, soprattutto nei mesi in cui è in qualche modo redditizia, quindi il mio ruolo è davvero anche abbastanza bieco e triste, cioè quello di essere un centro di costo per qualcuno che la deve prendere. Teoricamente potrei anche affittarla tutto l'anno, però proprio sapendo che il lucro cessante sarebbe davvero molto, molto basso, per intenderci, d'inverno ci prenderei davvero pochissimi soldi, a me pare un po' uno spreco in quei mesi, diciamo, che sono più lunghi dell'inverno, perché vanno da ottobre ad aprile, non almeno farmi venire in mente qualche idea alternativa, visto che sì, mi occupo di media, come sapete, però soprattutto negli ultimi anni l'arte contemporanea è entrata abbastanza prepotentemente nei miei studi, proprio per la sua capacità di occupare le praterie di rilevanza lasciate scoperte dai media. I media non riescono più a dare alle persone chiavi interpretative del mondo in cui vivono, essendo tutte impegnate a rubarci l'attenzione, a trasformarci in pesci rossi, per ragioni naturalmente di modello economico. E quindi che succede? Succede che le persone si ritrovano ad avere nella testa molte più notizie quando escono da un museo, piuttosto che quando hanno invece finito di leggere un giornale o finito di guardare un telegiornale. E questo è un tema che ritorna un po' negli ultimi miei saggi, soprattutto in Stiamo sprecando internet e prima ancora in Unframing, dove parlo proprio di questo, cioè del problema che non c'è più nessuno che viene pagato per veramente trovare qualcosa di rilevante per noi. E anzi, siamo nell'industria, le persone sono pagate proprio per evitare che qualcuno possa anche solo porsi la domanda: ma questo davvero è importante per me oppure no? E questo compito viene alla fine in qualche modo assolto dagli artisti contemporanei, purché naturalmente anche loro non vengono assorbiti in quello stesso tritacarne del marketing, che naturalmente sta per aggredire anche loro. Dopo aver aggredito i media, l'arte contemporanea è soltanto la prossima della lista. Ed è per questo che la mia idea sarebbe far sì che in questo spazio si esplorassero delle alternative. Quali alternative? Beh, ci sto ragionando con molti amici e soprattutto molti esperti del settore. Ogni suggerimento è benvenuto, ma naturalmente torneremo a parlarne. Mi verrebbe da dire su questi schermi, ma mi accontento anche dei vostri auricolari.